volte sai, mi sono detto, quasi quasi prendo e vado via. Ci sarà anche un posto maledetto, dove il cielo è uguale a casa mia. Grandi eroi o grandi idee, che importa, tanto poi il coraggio sai non c'è. O forse un po' quello di restare sempre a galla, ma restarci sai è difficile. Come fai che rimani sempre in piedi in mezzo ai guai? Come fai tu che ti scomponi solo un po' col tuoi? Io ci provo e sono sempre all'aria, sai. Sono nervoso, forse ansioso, ma che vuoi? Quante volte sai, mi sono detto, ora spengo tutto e resto qui. Faccio un salto dritto dentro al letto e non esco fino a venerdì. Che per ogni decisione presa c'è una strada lunga e stretta. E come mai che sei più ripida e scoscesa? Me la trovo di fronte sempre, ma tu come fai che rimani sempre in piedi in mezzo ai guai? Come fai tu che ti scomponi solo un po' coi tuoi? Io ci provo e sono sempre all'aria, sai. Nervoso, forse ansioso, ma che vuoi? Come fai che rimani sempre in piedi in mezzo ai guai? Come fai tu che ti scomponi solo un po' coi tuoi? Io ci provo e sono sempre a. Sono nervoso, forse ansioso, ma che vuoi? Sono nervoso, forse ansioso.